Terzo anello ad alta voce. Anna Karenina di Lev Tolstoi. L'errore fatto da Alexei Alexandrovich di non aver pensato nel prepararsi all'incontro con la moglie all'eventualità che il rimorso di lei fosse sincero e lui la perdonasse, ma lei non morisse. Questo errore gli apparve in tutta la sua gravità 2 mesi dopo il suo ritorno da Mosca. E l'errore derivava non solo dal fatto che aveva trascurato questa eventualità, ma anche dal fatto che sino al giorno dell'incontro con la moglie morente egli non conosceva il proprio cuore. Per la prima volta nella sua vita, al letto della moglie malata, si era abbandonato a quel sentimento di commossa compassione che in lui suscitavano le sofferenze altrui e del quale egli prima si vergognava come di una debolezza nociva. E la pietà per lei e il pentimento per aver desiderato la sua morte e principalmente la gioia in sé del perdono avevano fatto sì che a un tratto egli sentisse non solo un lenimento alle proprie pene ma anche una serenità d'animo che non aveva mai provato prima. A un tratto aveva sentito che proprio ciò che era la fonte delle sue sofferenze era diventato la fonte della sua gioia spirituale. Ciò che sembrava insolubile quando lui condannava, rimproverava e odiava, era diventato semplice e chiaro quando aveva cominciato a perdonare e ad amare. Aveva perdonato la moglie e ne aveva compassione per le sue sofferenze e il suo pentimento. Aveva perdonato Vronsky e ne aveva compassione, specialmente dopo che gli erano giunte le voci del suo gesto disperato. Anche del figlio aveva compassione più di prima e ora si rimproverava di essersi occupato così poco di lui. Ma verso la piccola neonata provava una specie di sentimento particolare, non solo di compassione, ma anche di tenerezza. In un primo tempo si era occupato soltanto per un sentimento di compassione di quella fragile bambina neonata, che non era sua figlia, e durante la malattia della madre era stata abbandonata, e sicuramente sarebbe morta se non se ne fosse occupato lui, e non si accorse come avesse preso a volerle bene. Varie volte al giorno andava nella camera dei bambini e vi restava a sedere per molto tempo, tanto che la balia e la gnagna, prima intimidite dalla sua presenza, ora si erano abituate a lui. Certe volte guardava in silenzio, per mezz'ora, il visino addormentato, rosso zafferano, lanuginoso e grinzoso della bambina e osservava i movimenti della fronte aggrottata e le manine paffute con le dita ripiegate che con il dorso fregavano gli occhietti e la radice del naso. Specie in questi momenti Alexei Alexandrovich si sentiva perfettamente tranquillo e in armonia con se stesso e non vedeva nella propria situazione nulla di eccezionale, nulla che occorresse cambiare. Ma quanto più il tempo passava, tanto più chiaramente egli vedeva che, per naturale che fosse per lui quella situazione, non gli avrebbero permesso di rimanervi. Sentiva che oltre alla felice forza spirituale che guidava la sua anima, c'era un'altra forza, volgare altrettanto se non più potente, la quale guidava la sua vita e che questa forza non gli avrebbe dato quella rassegnata quiete che lui desiderava. Sentiva che tutti guardavano a lui con interrogativo stupore, che non lo capivano e si aspettavano da lui qualcosa. Sentiva in particolare l'instabilità e l'innaturalezza dei propri rapporti con la moglie. Quando fu passato il raddolcimento prodotto in lei dalla vicinanza della morte, Alexei Alexandrovich cominciò a notare che Anna aveva paura di lui, era oppressa da lui e non poteva guardarlo apertamente negli occhi. Sembrava che desiderasse qualcosa e non volesse e non si risolvesse a dirglielo. Che anche lei, come presentendo che i loro rapporti non avrebbero potuto continuare, si aspettasse qualcosa da lui. Era dell'opinione che per Anna sarebbe stato meglio rompere i rapporti con Vronsky, ma se loro tutti trovavano che questo era impossibile, lui era pronto persino ad ammettere nuovamente questi rapporti, pur di non coprire di vergogna i bambini, di non privarsi di loro e di non mutare la propria situazione. Per quanto questo fosse male, era tuttavia meglio di una rottura, con la quale lei veniva messa in una situazione senza via d'uscita e lui veniva privato di tutto quello che amava. Si sentiva però impotente. Sapeva già in anticipo che tutti erano contro di lui e che non gli avrebbero permesso di fare quello che ora gli sembrava così naturale e giusto, ma l'avrebbero costretto a fare quel che era male, ma che a loro sembrava doversi fare. Thank you. Con l'aria alquanto solenne con cui si sedeva nella poltrona presidenziale del suo ufficio, Stepan Arkadic entrò nello studio di Alexei Alexandrovich. «Non ti disturbo», disse Stepan Arkadic, provando un senso di smarrimento per lui insolito alla vista del cognato. Per nascondere questo smarrimento, estrasse un portasigarette da poco acquistato, fornito di un nuovo sistema d'apertura, e dopo averne annusata la pelle, tolse una sigaretta. «No, hai bisogno di qualcosa?» rispose di malavoglia Alexei Alexandrovich. «Sì, volevo... ho bisogno di parlarti», disse Stepan Arkadic, sentendo con stupore un'insolita timidezza. Questa sensazione era così inaspettata e strana che Stepan Arkadic non pensò che fosse la voce della coscienza la quale gli diceva che era male ciò che lui aveva intenzione di fare. Stepan Arkadic compì uno sforzo su se stesso e vinse la timidezza che l'aveva preso. «Spero che tu creda nel mio amore per mia sorella e al sincero attaccamento e alla stima che ho per te», disse arrossendo. Alexei Alexandrovich si fermò e non rispose nulla, ma il suo viso colpì Stepan Arkadic per l'espressione da vittima sottomessa. «Avevo intenzione, volevo parlare di mia sorella e della vostra reciproca situazione», disse Stepan Arkadic, continuando a lottare contro l'insolita timidezza. Alexei Alexandrovich sorrise tristemente, guardò il cognato e senza rispondere andò al tavolo, ne prese una lettera incominciata e gliela tese. «Io penso senza tregua alla stessa cosa, ed ecco che cosa ho cominciato a scrivere supponendo che l'avrei detto meglio per iscritto e che la mia presenza la irriti», disse porgendogli la lettera. Stepan Arkadic prese la lettera, guardò con perplesso stupore gli occhi appannati che lo guardavano, fermi e immobili, e cominciò a leggere. «Vedo che la mia presenza vi è di peso. Per quanto penoso per me sia stato convincermi di questo, vedo che è così e che non può essere altrimenti. Non ve ne faccio una colpa, e Dio m'è testimone che dopo avervi visto durante la vostra malattia, mi ero deciso con tutta l'anima a dimenticare tutto ciò che è stato fra noi e a cominciare una nuova vita. Io non mi pento e non mi pentirò mai di ciò che ho fatto, ma desideravo una cosa sola, il vostro bene. Il bene della vostra anima, e adesso vedo che non l'ho raggiunto. Ditemi voi stessa che cosa vi può dare la vera felicità e la tranquillità della vostra anima. Io mi rimetto tutto alla vostra volontà e al vostro senso di giustizia». Stepan Arkadic restituì la lettera e con la medesima perplessità continuò a guardare il cognato, non sapendo che cosa dire. Questo silenzio era per entrambi così imbarazzante che sulle labbra di Stepan Arkadic si produsse un tremito morboso mentre egli taceva senza distogliere gli occhi dalla faccia di Karenin. «Ecco che cosa volevo dirle», disse Alexei Alexandrovich voltandosi dall'altra parte. Sì, disse Stepan Arkadic senza avere la forza di rispondere giacché gli venivano le lacrime alla gola. Sì, vi capisco», riuscì finalmente a proferire. «Desidero sapere che cosa vuole lei», disse Alexei Alexandrovich. «Ho paura che lei stessa non capisca la sua situazione. Non è un giudice», disse Stepan Arkadic riprendendosi. «È schiacciata, proprio schiacciata dalla tua generosità. Se leggerà questa lettera non avrà la forza di dir nulla, chinerà soltanto ancor più la testa». «Sì, ma che fare allora in tal caso? Come spiegare, come conoscere i suoi desideri? E se mi permetti di dire la mia opinione, io penso che dipenda da te indicare direttamente le misure che ritieni necessarie per far cessare questa situazione». «Il divorzio», lo interruppe con ripugnanza Alexei Alexandrovich. «Sì, suppongo che sia il divorzio. Sì, il divorzio», ripeté arrossendo Stepan Arkadic. Corrugato il viso per l'agitazione, Alexei Alexandrovich mormorò qualcosa fra sé e non rispose nulla. Lui aveva meditato mille volte tutto quel che a Stepan Arkadyc pareva così semplice. E tutto questo non solo non gli sembrava molto semplice, ma persino impossibile. Il divorzio, di cui egli conosceva già i particolari, gli sembrava adesso impossibile, perché il senso della propria dignità e del rispetto per la religione non gli consentivano di assumere su di sé l'accusa d'adulterio fittizio e ancor meno di ammettere che la moglie da lui perdonata e amata fosse riconosciuta colpevole e disonorata. Il divorzio gli appariva impossibile anche per altre ragioni, ancor più importanti. Che cosa ne sarebbe stato del figlio in caso di divorzio? Lasciarlo con la madre era impossibile. La madre divorziata avrebbe avuto una propria famiglia illegittima, nella quale la posizione del figlio e la sua educazione sarebbero state con ogni probabilità cattive. Tenerlo con sé? Egli sapeva che da parte sua questo sarebbe stata una vendetta e non voleva questo. Oltre a ciò, tuttavia, il divorzio sembrava ad Alexei Alexandrovich la cosa più impossibile, perché acconsentendo al divorzio, con ciò stesso avrebbe rovinato Anna. Gli si era impressa nell'anima la frase detta da Daria Alexandrovna a Mosca, che, risolvendosi al divorzio, lui pensava a se stesso e non pensava che così rovinava irrimediabilmente lei. E collegando questa frase con il proprio perdono, con il proprio attaccamento ai bambini, adesso egli la intendeva a modo suo. Acconsentire al divorzio, dare la libertà, significava nel suo concetto togliersi l'ultimo legame con la vita dei bambini che amava e togliere a lei l'ultimo sostegno sulla via del bene e precipitarla nella rovina. Se lei fosse stata una moglie divorziata, si sarebbe unita con Vronsky, lui lo sapeva, e questo legame sarebbe stato illegittimo e delittuoso. Perché una moglie, secondo il senso della legge della Chiesa, non può contrarre un nuovo matrimonio finché il marito è vivo. Lei si unirà a lui e fra un anno o due lui l'abbandonerà o lei contrarrà un nuovo legame, pensava Alexei Alexandrovich. E io, avendo acconsentito a un divorzio illegittimo, sarò il colpevole della sua rovina. Aveva meditato su questo centinaia di volte ed era convinto che la faccenda del divorzio non solo non era molto semplice, come diceva suo cognato, ma assolutamente impossibile. Non credeva a una sola parola di Stepan Arkadyc, per ogni sua parola aveva mille smentite, ma lo ascoltava sentendo che attraverso le sue parole si esprimeva quella possente, volgare forza che guidava la sua vita e alla quale egli si sarebbe in ultimo assoggettato. «La questione sta soltanto nel come, a quale condizioni tu acconsentirai a fare il divorzio. Lei non vuole niente, non osa chiedere. Lei lascia tutto alla tua magnanimità». Dio mio, perché?» pensò Alexei Alexandrovich, pensando ai particolari di un divorzio fondato sull'assunzione di colpa da parte del marito, e si nascose il viso fra le mani per la vergogna, con il medesimo gesto con cui se l'era nascosto Vronsky. «Tu sei agitato, lo capisco, ma se rifletterai...» «E a chi ti percuote su una guancia, presenta anche l'altra, e a chi ti porta via il mantello, non negare anche la tunica», pensò Alexei Alexandrovich. «Sì, sì!» gridò con voce stridula. «Prendo su di me l'ignominia, do persino il figlio, ma non è meglio lasciar stare questo. Del resto, fai quello che vuoi». E voltatosi così che il cognato non potesse vederlo, si sedette su una seggiola vicino alla finestra. Provava amarezza, vergogna. Ma insieme con questo dolore e con questa vergogna provava gioia e commozione di fronte all'altezza della propria umiltà. Stepan Arkadyc era commosso. Tacque. «Alexei Alexandrovich, credimi, lei apprezzerà la tua magnanimità. Ma si vede che era la volontà di Dio», soggiunse. E detto questo sentì che era una cosa stupida e trattenne a fatica un sorriso sulla propria stupidità. Alexei Alexandrovich avrebbe voluto rispondere qualcosa, ma le lacrime lo fermarono. «È una sventura del destino e bisogna accettarla. Io accetto questa sventura come un fatto compiuto e cerco di aiutare lei e te», disse Stepan Arkadich. Quando uscì dalla stanza del cognato, era commosso, ma questo non gli impediva di essere contento per aver condotto felicemente a termine la faccenda, poiché era persuaso che Alexei Alexandrovich non avrebbe ritratto le proprie parole. La ferita di Vronsky era pericolosa, benché avesse risparmiato il cuore. Per vari giorni egli rimase fra la vita e la morte. Con quell'atto, in un certo senso, aveva lavato via da sé l'onta e l'umiliazione che sentiva prima. Adesso poteva pensare con calma ad Alexei Alexandrovich. Riconosceva tutta la sua generosità, ma non si sentiva più umiliato. Inoltre, si era nuovamente messo nella sua carreggiata di vita. Gli era di nuovo possibile guardare negli occhi la gente senza vergogna e vivere attenendosi alle proprie abitudini. La sola cosa che non poteva strappare dal proprio cuore, benché lottasse senza tregua contro questo sentimento, era il rammarico che giungeva sino alla disperazione di averla perduta per sempre. Che adesso, avendo egli espiata la propria colpa di fronte al marito, dovesse rinunciare a lei e non mettersi più d'ora innanzi fra lei pentita e il marito, era una cosa fermamente decisa nel suo cuore. Ma egli non riusciva a strappare dal proprio cuore il rammarico d'aver perduto l'amore di lei. Non poteva cancellare nella memoria i momenti di felicità che aveva conosciuto con lei, che allora essi non avevano apprezzato quanto meritavano e che adesso lo perseguitavano con tutto il loro fascino. Ser Pučovskoj aveva escogitato per lui la nomina a Tashkent e Vronsky aveva consentito a questa proposta senza la minima esitazione. Ma quanto più si avvicinava il momento della partenza, tanto più penoso diventava per lui il sacrificio che faceva per ciò che riteneva doveroso. La sua ferita si era cicatrizzata ed egli aveva cominciato ad uscire, facendo i preparativi per la partenza alla volta di Tashkent. «Vederla una volta e poi seppellirsi, morire», pensava, e facendo le visite d'addio espresse questo pensiero a Betsy. Betsy era andata da Anna con questa ambasceria e gli aveva recato la risposta negativa. «Tanto meglio», pensò Vronsky ricevendo quella risposta. «Era una debolezza che avrebbe distrutto le mie ultime forze». Il giorno dopo, Betsy stessa andò da lui al mattino e gli annunciò di aver ricevuto attraverso Blonsky la notizia positiva che Alexei Alexandrovich concedeva il divorzio e perciò lui poteva vedere Anna. Non curandosi neppure di accompagnare Betsy a casa, dimenticando tutte le proprie decisioni, non domandando quando fosse possibile, dove si trovasse il marito, Vronsky andò subito dai Karenin. Corse su per la scala non vedendo niente e nessuno e con passo rapido, trattenendosi a fatica dal correre, entrò nella stanza di lei. e senza pensare e senza notare se nella camera ci fosse qualcuno, l'abbracciò e cominciò a coprire di baci il suo viso, le mani e il collo. Anna si era preparata a questo incontro, aveva pensato a quello che gli avrebbe detto, ma non fece in tempo a dir nulla di ciò che aveva pensato. La passione di lui la travolse. Voleva calmare lui, calmare se stessa, ma era già troppo tardi. Il sentimento di Vronsky si era già comunicato a lei. Le sue labbra tremavano tanto che per molto tempo non poté dir nulla. «Ah, sì, sì, ti sei impadronito di me e io sono tua», proferì infine premendosi al petto la sua mano. «Così doveva essere», disse lui. «Finché siamo vivi, così deve essere. Adesso lo so». «È vero», disse lei impallidendo sempre più e abbracciando la sua testa. «Tuttavia c'è qualcosa di orribile in questo, dopo tutto quello che è successo. Tutto passerà, tutto passerà. Noi saremo così felici. Il nostro amore, se potesse diventare più forte, lo diventerebbe per il fatto che c'è in esso qualcosa di orribile», disse lui, sollevando la testa e scoprendo nel sorriso i suoi forti denti. Secondo le concezioni che Vronsky aveva sempre seguito, rinunciare alla lusinghiera e pericolosa nomina a Tashkent sarebbe stato disonorevole e impossibile. Ma ora egli vi rinunciò senza pensarci su nemmeno un minuto e, avendo notato nei superiori disapprovazione per il suo gesto, diede immediatamente le dimissioni. Dopo un mese, Alexei Alexandrovich rimase solo con il figlio nel suo appartamento, mentre Anna partì per l'estero con Vronsky, senza aver avuto il divorzio e avendovi decisamente rinunciato.